silenzio a colpire il tonore. Guardati, non cambi mai. Guardami, non cambi mai. Guardati, non cambi mai. Guardami, non cambi mai. Una parola ogni voto che hai presa. Un'altra parola assapori il mio sputo. Guardati, non cambi mai.